10 e 25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020. La strage alla stazione di Bologna, 40 anni dopo. La scheda. Dovrà essere ricordato come colui che in questo paese, tra i primi, ha esercitato il diritto dei cittadini a chiedere trasparenza e coerenza nel funzionamento della giustizia in nome delle vittime. Sono parole usate per ricordare, dopo la sua morte, il primo presidente dell'Associazione Vittime del 2 agosto 1980. Il suo nome è Torquato Secci. Nato il 26 luglio 1917 a Terni, dopo la guerra Torquato Secci aveva trovato lavoro in un'industria chimica di Nera Montoro e si era sposato con un'insegnante, Lidia Piccolini, scomparsa 96 anni, il 26 marzo 2020. La coppia aveva avuto due figli, Sandro e Sergio. Sandro era morto da bambino, stroncato a 8 anni dalla poliomielite, ma c'era ancora Sergio di cui prendersi cura. E Torquato Secci aveva continuato anche a coltivare l'amore per la politica, l'archeologia e la cultura della sua terra, l'Umbria. Nel 1976 era andato in pensione, così aveva pensato di potersi finalmente dedicare alle sue ricerche, mentre Lidia aveva progettato di mettersi a coltivare un po' di terra. Ma poi era arrivata la strage a prendersi anche il secondo dei loro figli, Sergio, che Torquato Secci vegliò fino al 7 agosto 1980. Sergio aveva 24 anni e quando arrivò all'ospedale maggiore era così grave da poter comunicare solo indicando con gli occhi le lettere dell'alfabeto scritte su foglietti. In questo modo i soccorritori ottennero l'indirizzo e il numero di telefono dei genitori a Terni. Appena giunto a Bologna, Torquato Secci ricordò: "Sono sceso alla stazione e la prima cosa che mi ha commosso è stato l'essere avvicinato da un autista che mi disse: lei è un familiare, venga con me, ci penso io. Lo guardai stupito e immediatamente gli dissi: mio figlio si trova all'ospedale maggiore, è grave, e lui mi accompagnò. Durante il viaggio mi disse: guardi, per tutto il tempo che si tratterrà in città non si preoccupi, prenda il taxi, perché il comune di Bologna ha pensato a tutto. Difatti fu così. Sergio, a cui avevano asportato un polmone e amputato una gamba, lottò per 5 giorni. Poi Torquato e Lidia persero anche lui e Lidia raccontò anni dopo: la consapevolezza è arrivata con il tempo, ma non siamo stati lì ad aspettarla. Ci siamo attivati subito, ci siamo imposti un sistema di vita che avesse come unico scopo la difesa dell'immagine delle vittime. Iniziarono fin dalle prime settimane, dai primi mesi dopo la strage. Poi, il 20 marzo 1981, accadde un altro fatto. A Catanzaro, per la bomba di Piazza Fontana, la Corte d'Assise d'Appello assolse gli imputati condannati all'ergastolo in primo grado. Secci commentò così la notizia. L'eco di quella sentenza impose una seria riflessione. Cosa si poteva fare per la strage di Bologna e perché non accadesse quello che era successo alle vittime della strage di Milano? Mi consultai con mia moglie Lidia, con gli avvocati, con gli amici e con Miriam Ridolfi, che come assessore aveva contribuito in modo determinante all'organizzazione degli aiuti. Occorreva organizzarsi. Secci e la moglie radunarono un primo nucleo di familiari, si presentarono in comune chiedendo uno spazio in cui riunirsi e il 1 giugno 1981, 10 anni dopo l'esplosione, i locali di via d'Azeglio 34 videro la nascita dell'associazione vittime. Erano partiti in una quarantina, in breve diventarono 300 e nominarono Torquato Secci presidente, Paolo Bolognesi vicepresidente e Giorgio Gallon segretario. Lo statuto scandiva il suo scopo: ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta, ma radunare le famiglie toccate dall'ordigno di Bologna non era abbastanza. Così, il 6 aprile 1983 nacque l'Unione dei Familiari delle Vittime per Stragi, all'inizio Piazza Fontana, Piazza della Loggia e l'Italicus. Poi si aggiunse la strage di Ustica e infine quella di Natale, avvenuta il 23 dicembre 1984 sul Rapido 904. Vennero infine gli attentati del 1992 in Sicilia e del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Secci affermò: siamo stanchi e addolorati per il ripetersi delle stragi. I colpevoli, i mandanti e gli esecutori materiali sono in libertà e chiedono di ampliare il perdonismo che ha consentito di mantenere nel segreto chi li finanziò e li spinse verso il terrorismo. Non è possibile limitarsi a dire basta. Torquato Secci è morto a 79 anni il 26 aprile 1996. Nei mesi precedenti la moglie Lidia si era accorta che le sue forze andavano scemando, ma c'era il discorso del 2 agosto da preparare, c'era la cerimonia da mettere a punto e gli accertamenti medici potevano aspettare fino a fine estate. La diagnosi fu implacabile: cancro al fegato. Quando arrivò a Secci venne proposto un trapianto in Gran Bretagna, ma rifiutò, preferendo trascorrere le sue ultime settimane a sistemare quanto aveva lasciato in sospeso. Prima di morire, Torquato Secci, definito un partigiano della verità e della giustizia, consegnò a Lidia un messaggio messaggio per gli altri componenti dell'associazione vittime. Potete intervenire e vedere quello che è possibile fare, perciò niente paura, avanti tutta. Un testamento consegnato nelle mani del suo successore, Paolo Bolognesi, che nel discorso pronunciato il 2 agosto 1996 lo salutò con queste parole. Il miglior modo per ricordarlo sarà continuare a sostenere l'associazione fra i familiari delle vittime nella difficile ricerca della verità. Bologna è una donna emiliana di zigomo forte. Bologna è capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto, la vita, e che sa stare in piedi per quanto colpita. Così cantava nel 1981 Francesco Guccini, con la famosa traccia Bologna, tratta dall'album Metropolis, che usciva proprio a un anno di distanza dalla strage. Ed è proprio il 1981 il punto di partenza del racconto della nostra ultima puntata dedicata alla memoria della strage di Bologna. Il 1981 è una data importante perché qui si colloca il primo anniversario della strage e si colloca quindi un inizio di un racconto, di una memoria di quello che è stato la strage del 2 agosto per la città di Bologna. Bologna è una donna emiliana di zigomo forte. Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto, la vita, che sa stare in piedi per quanto colpita. Nel primo anniversario della strage alla stazione di Bologna, il Partito Comunista Italiano decise di affrontare questo importante anniversario lanciando un quadro molto ampio di iniziative raccolte sotto l'etichetta Stop Terror Now. Una serie di iniziative che sarebbero iniziate dalla fine di luglio e sarebbero arrivate fino al 2 agosto, giorno della commemorazione, rivolte ai giovani di tutta Europa, cercando di rilanciare in un contesto del ricordo un'iniziativa di proposta, facendo dialogare e incontrare i giovani sulla base delle tematiche che per loro erano importanti, che erano le tematiche dei nuovi movimenti che si stavano sviluppando all'inizio degli anni 80, quindi la pace, l'ambiente, la controcultura, le questioni di genere. Furono dei giorni molto importanti, si incontrarono a Bologna effettivamente giovani provenienti da tutta Europa, ci furono le liste alternative, gli scout della Germania, dei giovani europei in vacanza in Riviera che si affacciarono a Bologna con l'idea di andare a un concerto rock, ci furono giornalisti e musicisti britannici che vennero invitati, studenti iraniani e palestinesi e i volontari del Servizio Civile Internazionale che stavano svolgendo un campo di lavoro nell'area ex Nam a San Donato. Giornate molto importanti in cui ci fu naturalmente uno scontro anche fra i militanti del Partito Comunista e i giovani dell'Autonomia Operaia, il 1 agosto all'Arena del Sole, ma un incontro che lasciò un po' d'amaro in bocca. I giovani convenuti, come riportano le pagine dello speciale di lotta continua che veniva scritto in quei giorni a Bologna, lamentavano una mancanza di spazio per il dibattito e una cornice in fondo un po' forzata. Le forze di opposizione e parte della stampa nazionale criticavano l'insistenza sui concerti rock, sulla musica per ricordare un anniversario doloroso. Molto probabilmente quello del Partito Comunista era stato il tentativo di approfittare dell'anniversario per cercare di ricostruire un rapporto con i giovani del 77. L'evento più importante naturalmente fu la lettura d'Antis che Carmelo Bene, l'attore e drammaturgo, fece dalla Torre degli Asinelli il 31 luglio. Un evento importantissimo che inizialmente molto contestato per il cachet che aveva chiesto Bene e per le dichiarazioni dell'attore, ma che si trasformò in una grande commemorazione, una manifestazione laica, una manifestazione di popolo. Carmelo Bene definì quella serata come «Sono apparso alla Madonna», un'espressione che utilizzerà anche come titolo per la sua autobiografia. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli, mo se le mie parole sardì insieme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu devi saper, io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro della muda, la qual per me ha il titol della fame, in che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non vonno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte, in piccio il corso mi pariano stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi, la dimane pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco, e domandar del pane. Ben sei crudel se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Facciamo un salto di diversi anni e proviamo a concentrarci su alcuni prodotti culturali che hanno raccontato la strage. Nel 2010 esce un fumetto curato da Alex Boschetti e Anna Ciammiti che racconta la strage rivolgendosi a un pubblico giovanile, utilizzando un tono didascalico e di approfondimento. Il vero libro che però racconta la strage di Bologna è Strage, dello scrittore bolognese Loriano Machiavelli, il creatore del personaggio di Sarti Antonio Sergente, che a firma Jules Kicher, uno pseudonimo, pubblica il romanzo Strage, un libro che venne pubblicato nel 1990 e che restò in libreria per non più di una settimana. La storia di Strage è abbastanza anomala. La Rizzoli mi propose una trilogia sui misteri italiani. Io pensai di partire con uno dei primi misteri italiani. Nel 1947, a Portella della Ginestra, ci fu la strage perpetrata da Giuliano, dal bandito Giuliano, il primo maggio del 1947, e che ha tutte le caratteristiche della prima strage, ma che ha in trasparenza tutti quegli avvenimenti che poi abbiamo ritrovato nelle stragi successive, di pistaggi, cioè collusione mafia, politica, dei servizi deviati, depistaggi, soprattutto depistaggi che troviamo in tutte le strade, ecco, e quindi è nato così. La prima avrebbe dovuto essere Portella della Ginestra, ma l'editor mi dice che è troppo lontana nella memoria, partiamo con qualcosa di più recente, e allora siamo partiti con Funerale dopo Ustica, l'avvenimento sul mare di Ustica, che ha avuto un grande successo, devo dire. E guardate, la cosa è abbastanza strana, perché allora allora ebbe un grande successo quel romanzo, peraltro con pseudonimo, ma non perché io mi vergognassi o mi volessi nascondere, pseudonimo perché volevamo dimostrare, assieme a chi curava questa serie, che anche gli scrittori italiani sapevano scrivere di questi misteri, di questa storia romanzata, ed erano piuttosto bravi. Poi alla fine avremo scoperto le carte dicendo: guardate che questo Jules Quichet non esiste, l'ha scritto uno scrittore italiano, Loriano Machiavelli. Non abbiamo potuto portare a compimento tutto il progetto perché a un certo punto Strage, che era lo stesso ugualmente di Jules Quichet, anche questo con pseudonimo, e poi ha subito un processo, quindi l'autore ha dovuto venire alla luce. Il progetto è finito così, insomma, no? Però questo era l'iter che avremmo dovuto fare. È strana questa cosa, perché la riporto? Perché Funerale dopo Ustica, oggi, a distanza di 30 anni, io oggi non trovo un editore disposto a ristamparmi Funerale dopo Ustica, perché è troppo pericoloso, dicono tutti. Ci sono problemi legali, i tempi sono cambiati dal 1990 ad oggi, sono cambiati ma in peggio, direi. Strage è stato in libreria 5, 10, forse 15 giorni, poi è stato sequestrato per ordine di Pomarici, un magistrato milanese che si occupava in quel periodo di Brigate Rosse, di terrorismo rosso e nero, eccetera. Sequestrato perché un personaggio del romanzo si era riconosciuto nella storia e si era ritenuto offeso, diffamato, e quindi chiedeva i danni, eccetera, eccetera. Quindi è sparita dalla circolazione il romanzo Strage. Finito il processo, che era un processo per direttissima che è durato un anno e mezzo, quindi mi chiedo quanto dureranno quelli che non sono per direttissima, con la soluzione mia e dell'editore, e anche qui il rapporto autore-editori in questi casi è drammatico. Mi sono sentito lasciato solo, nessuno si occupava di questa storia, nessuno mi tutelava, ho dovuto prendermi un avvocato io personalmente, telefonate minatorie di notte, insomma è stato un dramma che spero di non vivere mai più. E è finito il processo con la soluzione per diritto dovere di cronaca, previsto peraltro dalla nostra Costituzione, quindi la cosa mi ha fatto molto piacere. Io avrei pensato che tutto tornasse in libreria, che questo romanzo tornasse in libreria con tutto il cancan che si era stato fatto attorno a questo processo, la stampa ne aveva parlato, eccetera eccetera. Invece il romanzo non tornò più in libreria, grazie soltanto alla Einaudi. Nel 2010, a 30 anni dalla strage, mi fu proposto di ristampare questo romanzo. Io non volevo stamparlo, per la verità, perché ne avevo avuto abbastanza, però Libero Mancuso, che fra l'altro è uno dei magistrati che ha indagato nella strage di Bologna, mi suggerì: fai mettere nel contratto che se ci sono problemi legali tu ti tieni la parte, diciamo, parte economica va caricata all'editore, se vieni condannato è chiaro che in carcere devo andarci io, non ci deve andare l'editore. Per cui, facendo questa postilla, io accettai di ristampare il romanzo integralmente così come era stato uscito allora, soltanto cambiando il nome di quel personaggio che mi aveva citato in giudizio, in modo che fosse un pochino mascherato. La ristampa ha avuto grande successo, tant'è vero che adesso a 40 anni, nel 2020, uscirà una nuova edizione di questo romanzo Strage, che devo dire mi ha dato grande soddisfazione, sia dal punto di vista del pubblico, che coloro che l'hanno letto. Ho ricevuto lettere entusiaste e anche lettere che lo hanno demolito, ma fa parte del mestiere, e quindi sono contento anche di questa ristampa che uscirà nel 2020. Un altro racconto della strage lo troviamo in Romanzo Criminale, un libro dello scrittore e giudice Giancarlo De Cataldo, che venne pubblicato nel 2002 da Einaudi, da cui venne tratto nel 2005 poi un film di Michele Placido e infine una serie televisiva da Sky, ideata e diretta da Stefano Solim, andata in onda dal 2008 al 2010. È soprattutto nel film che c'è un racconto della strage di Bologna. Uno dei personaggi principali, il Freddo, interpretato da Kim Rossi Stewart, arriva a Bologna proprio il 2 agosto alle 10:25, ed è dalla strage di Bologna che inizia un cambiamento che lo porterà anche ad allontanarsi dalla banda. Nell'opera di De Cataldo, la strage è uno dei punti di raccordo fra la grande criminalità organizzata della banda della Magliana, il neofascismo e i servizi segreti. La sorella di Franco partiva per il mare, lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione. Poi nel sole del mattino vide il volo cieco di un piccione, passò un momento sospeso, e polvere spettri fuggenti, prima di un po' di luce, per Bologna i suoi lamenti. Lele era un bambino e rimase fermo ad ascoltare le frasi in dialetto che il postino diceva al padre. Era solo un bambino, ma ricorda ancora bene la faccia di quell'uomo e il grido delle sirene. Passò un giorno per capire, poi giornalisti e il presidente, prima di un po' di luce per Bologna e la sua gente. Salì sul taxi coi feriti accanto, guidò fino all'alba e poi si arrese al pianto. Dal sedile di dietro il sangue era preso, gli parlava di morte, dell'orrore improvviso. Passarono mesi e stagioni, omissioni e servizi deviati, prima di un po' di luce per Bologna e i suoi magistrati. Maria di 20 anni aveva il mondo davanti e lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se n'è andata come un angelo in volo, inghiottita nel nulla, in un attimo solo. Passarono più di 10 anni, quante promesse infinite, prima di un po' di luce per Bologna e le sue ferite. Sono ancora pochi i prodotti culturali che raccontano la strage dal punto di vista umano, che cercano di raccontarla come parte della nostra storia e della nostra memoria. Uno dei prodotti che meglio entra in questa direzione è il film di Luciano Ligabue, Da 0 a 10 del 2002. Al centro del film sono 4 amici sui 35-40 anni che decidono di rifare dopo 20 anni un weekend di vacanza che avevano fatto nell'agosto del 1980, che avevano lasciato a metà per un'improvvisa e veloce partenza. In questa gita di uomini insoddisfatti delle loro vite che rimpiangono il quella famosa vacanza a Rimini, c'è una sorta di convitato di pietra che compare solo come una fototessera con uno di loro libero. L'ideatore di questo strano anniversario appende ovunque. È Mirko, il quinto amico che doveva raggiungerli in spiaggia a Rimini, ma che non arrivò mai. Non ne hai già attaccate abbastanza di quelle foto in questi giorni? Piantala questo teatro, i compleanni, le foto. Cos'è? Ci stai molto sottilmente dicendo che Mirko ce lo portiamo comunque con noi? Vaffanculo. Non ce la fai a farmi sentire in colpa. Non ce l'hai fatta per 20 anni e non ce la fai neanche per l'anniversario. Perché non è colpa nostra. Ficcatelo in quella testa di cazzo una volta per tutte. Se hanno messo la bomba, se Mirko era là, se noi eravamo qua, non è colpa nostra. Hai ragione. Era solo colpa sua. La colpa di avere 16 anni, di non avere la patente, di lavorare già e di essere responsabile. E perciò di venire a Rimini soltanto di sabato. Perché era sabato quel giorno lì. Chi ha fatto il lavoretto ci ha pensato su bene. Perché sabato 2 agosto... Per forza la stazione di Bologna è imballata di gente. Oltre ai prodotti culturali, il vero lavoro di trasmissione della memoria viene portato avanti però dagli istituti storici come l'Istituto Parri di Bologna, da associazioni come naturalmente l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto e viene portato avanti anche dalla scuola e da tanti insegnanti che organizzano ogni anno incontri nelle scuole per parlare di ciò che è successo in quel tragico agosto. Una delle persone che più frequentemente si rega a parlare con i ragazzi è proprio Agide Melloni, l'autista dell'autobus 37. Il racconto di una vicenda drammatica come lo è la strage alla stazione di Bologna non è una cosa semplice da raccontare ai giovani, perché i giovani mancano di una molto spesso nelle scuole la programmazione scolastica, diciamo il percorso educativo che fanno li taglia fuori da momenti importanti della nostra storia e quindi bisogna farci i conti con questo, perché può capitare di entrare in qualche scuola e i ragazzi sono, può anche succedere che sono impreparati, no? Come si può affrontare questo problema? Io credo che vada dato il giusto risalto a un progetto che alcuni anni fa è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, e che ha lavorato molto affinché questo si realizzasse. Questo progetto prevede l'incontro con gli studenti di ogni ordine e grado, a partire dalle elementari, dalle quinte elementari, su SUVI via fino alle medie, fino agli istituti, fino anche all'università. Questi incontri avvengono sempre con la presenza di un testimone, cioè qualcuno di noi e anche persone che fanno parte dell'associazione dei familiari delle vittime, cioè persone che sono rimaste direttamente, fisicamente coinvolte anche proprio nella strage del 2 agosto, hanno perso anche dei loro familiari. Quindi c'è qualcuno di noi che ha avuto un ruolo nel momento del soccorso e ci sono anche testimoni che sono stati coinvolti. Insieme con noi c'è sempre una storica, una docente di storia, la professoressa Cinzia Venturoli, che prima addirittura che noi abbiamo gli incontri con gli studenti, lei prepara insieme ai professori, insieme ai maestri, alle maestre, prepara i ragazzi a questo discorso molto delicato, perché questo è molto importante, arrivare all'incontro con i ragazzi, che i ragazzi diciamo non siano completamente impreparati. E a quel punto lì l'incontro che noi, io parlo per la mia esperienza, l'incontro che io ho con i ragazzi si trasforma in un qualche cosa di incredibilmente positivo. Io posso dire e dico con molta tranquillità che gli incontri con i ragazzi mi stanno cambiando notevolmente, stanno cambiando anche molto il mio metro di giudizio, no, nei confronti delle giovani generazioni. Posso con tutta tranquillità dire che gli studenti riescono a esprimersi su questo argomento così molto, molto particolare, molto difficile, molto delicato, no? Andiamo nelle scuole in definitiva a parlare di una strage, ma poi attraverso l'intervento della nostra storica andiamo nelle scuole a parlare di un arco di tempo, gli anni 70-80, che sono stati attraversati da una fase dove il terrorismo, la paura, la violenza erano un po' all'ordine del giorno. Quindi deve esserci un rapporto molto particolare con i ragazzi perché loro siano presenti, ascoltino e si rendano responsabili delle cose che noi andiamo a raccontare. È un rapporto molto molto positivo, perché i ragazzi non solo ascoltano, ma i ragazzi percepiscono la difficoltà nei racconti di chi li fa e percepiscono l'importanza della lezione storica che la docente rivolge a loro, entrano dentro un periodo che loro non hanno vissuto e per farlo bisogna utilizzare le parole giuste. È chiaro che noi quando parliamo ai bambini della quinta elementare non possiamo avere lo stesso linguaggio di quando parliamo agli studenti dell'università. Dobbiamo adattare le parole, dobbiamo cercare il modo di comunicare con loro, ma quando riusciamo a stabilire questo, io direi che riusciamo sempre, si crea qualche cosa che è magico, che è molto importante, molto molto bello, molto importante, lascia un segno anche in noi. 10:25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020, la strage alla stazione di Bologna 40 anni dopo è uno speciale radiofonico curato da Alessandro Canella, Jacopo Frei, Alessia Masini, Olga Massari, Deborah Sannia e Antonella Beccaria.